conclusiva di oggi. Sì, allora, come dice, questa è l'udienza conclusiva di un processo relativo a un infatti, cioè, di uno sciopero del primo giugno 2006, quando in seguito al licenziamento di 400 persone è stato fatto uno sciopero davanti a Tesia con le solite rivendicazioni in termini di contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli vigenti, lavori a progetto e precedentemente costa tutta la vertenza a Tesia, che è stato pensato evidentemente di placare con queste denunce che abbiamo per violenza privata a danni di 15 tra lavoratrici e lavoratori del collettivo per la Tesia e persone dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la precarietà. La stessa, insomma, lo stesso processo ha mostrato nelle testimonianze anche della Digos che non c'è stato nulla quel giorno, insomma, non, un processo basato sul nulla è totalmente politico, nel senso che andava data un segnale forte per reprimere una lotta e si è pensato bene, insomma, di denunciare e far partire questo processo sulla base del nulla, perché poi alla fine non è successo nulla, ma anche in sede di testimonianze non è veramente non c'è stato nessun episodio, tranne qualche tentativo da parte di qualche esponente delle forze d'ordine di voler ingigantire il nulla, ma insomma non c'è stato veramente nulla da segnalare. E oggi quindi noi ci attendiamo, nel senso che pretendiamo la soluzione per tutte e tutte, che è l'unica soluzione possibile a questa vicenda che comunque tanti danni ha fatto, perché rispetto a una vertenza, a un posto di lavoro, centinaia di licenziamenti, oltre a queste, tra tutte queste denunce, chiaramente sono cose che segnano e che in un certo modo hanno segnato fortemente la vicenda. Senta. Quindi oggi speriamo che questa pagina sicuramente repressiva si chiuda con una soluzione. Ho capito. Comunque, insomma, questo dovrebbe essere finalmente il punto finale per questa vicenda, almeno dal punto di vista giudiziario. E ti volevo chiedere, c'è un presidio, c'è presenza di compagni là davanti? Com'è la situazione? No, cioè, ci sarà una presenza all'interno dell'aula, non c'è un presidio esterno, pensiamo sia più utile proprio assistere, anche per capire quali sono le procedure, le cose che verranno dette, insomma, qual è l'atmosfera di un processo del genere basato, come dicevo prima, sul nulla, e utilizzare anche visibilmente una solidarietà, insomma, una vicinanza da parte di chi comunque ha vissuto la vicenda, sta facendo sentire questa presenza. Sì, anche perché poi insomma questa storia è servita anche da modello per altre in anni più recenti, quindi insomma assume un po' i contorni di un paradigma per quello che è andato avvenendo negli ultimi 5 anni, no? Esatto, cioè, adesso poi comunque in tutta la vicenda è stata sì, esemplificativa, anche servita insomma come laboratorio sia da una parte che dall'altra, perché tutta la repressione che c'è stata, lo scavalcamento di assemblee di lavoratori, di lavoratrici durante le assemblee CGL e C3UIL che venivano completamente ribaltate, quindi è un pericolo forte che si avvertiva, si è pensato bene da tutte le parti di criminalizzare una lotta del genere, cosa che avviene, cioè è chiaro che non è che è avvenuta solo in Odessa, avviene ogni volta insomma che non si hanno risposte da parte sia delle istituzioni, delle aziende, anche CGL e C3UIL che spesso funzionano da delatori e quindi si percorre sempre la strada della repressione. Questo è un ulteriore esempio, non sarà primo, purtroppo non sarà l'ultimo, in questo periodo di crisi insomma sappiamo bene che spesso l'unica risposta che sanno dare è quella di repressione, appena qualcuno si muove viene attaccato in modo proporzionato rispetto a tutto quello che avviene, perché poi alla fine stiamo parlando del nulla che è stato ingigantito e che comunque poi pesa, sappiamo benissimo che pesa sulle spalle di tutti quanti, e che come pesa chiaramente un licenziamento, perché poi è la mancanza di salario, e quindi insomma è chiaro che è una minaccia che ha un suo effetto,